got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Il signor soprano? Sì. Sono Noah Tannenbaum. Senti, ma voi due, tu e Medo, state... Ancora non lo so. Da dove vieni, Nathan? Noah. Sono di Los Angeles, zona est. Oh, quello che intendo è... La mia famiglia lavora nel cinema, il famoso show business, lo chiamano così. I film di Tarzan? No, no, mio padre fa l'avvocato dei divi. Volevo dire che noi siamo di origine italiana. Ah, cioè, per questo mio padre è ebreo e mia madre è afroamericana. Tannenbaum, certo. Ma sul modulo dell'università non c'è scritto che sei ebreo. No, non sono messe domande di quel genere. Ah, certo, naturalmente. E che hai messo? Afroamericano. Quindi ci capiamo noi due. Sei nudezzone. Mi scusi? Una carbonella, faccetta nera. Qual è il problema? Io penso che hai capito benissimo. La tua amichetta là sopra non ti ha fatto un gran regalo a portarti qua. Io non so che cazzo pensava. Poi ce lo dirà, eh? Vedi, tengo molti soci di colore, però non mandano le figlie con mio figlio e io non mando coi loro la mia. Vado a farsi fottere. È proprio quello che cerco di evitare, faccetta nera. Così quando mia figlia scende le scale, le dici che ti sono molto simpatico. Poi quando sarete uscite di casa, la lasci per sempre. That's the story of... That's the glory of Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. E allora, seconda puntata del programma che ha ricominciato la stagione autunnale quest'anno, sempre carichi di nuovi argomenti, di nuove storie e, come avete sentito, anche di nuove suggestioni cinematografiche o televisive, perché abbiamo deciso di aggiornare un po' questa nostra ispirazione al film Indovina chi viene a cena, che si occupava di temi razziali, di integrazione, di identità, con degli, appunto, delle suggestioni tratte da film e serie televisive, in questo caso I Soprano, più attuali. Ci sono molti modi per parlarne, noi abbiamo deciso di farlo attraverso spesso una chiave ironica o più leggera, attraverso la cucina, oppure storie che ci vengono incontro di persone integrate che vivono nel nostro paese e ne danno un contributo. Questa sera abbiamo invece il contributo di uno scrittore, che è anche un operatore sociale a Napoli precario, che ha deciso di parlare della presenza in Italia di migranti, di rifugiati, in maniera molto divertita e divertente. Nonostante questo, in realtà il tema dei suoi libri è un tema importante, perché lui, attraverso l'ironia, parla delle contraddizioni del terzo settore, della presenza sul territorio di queste persone, degli intoppi burocratici, gli imbrogli che abbruttiscono anche questo fenomeno dell'immigrazione. Però i toni sono sempre divertenti. Abbiamo con noi Marco Elardo, che ha scritto Fratello John, Sorella Mary, Le nuove avventure semiserie dell'operatore sociale precario Mauro Elia, edizioni Spartaco. Benvenuto Marco. Grazie Valentina. A differenza di quello che accade spesso, non fai né dei migranti, degli stranieri, dei rifugiati, dei santi, né degli operatori che lavorano in questo settore. Anzi, molto spesso queste associazioni vengono guardate anche con un occhio critico, sempre ironico ma anche critico. Vengono prese di mira le contraddizioni del terzo settore, con l'arma dell'ironia però. Infatti io ho usato l'ironia come arma di denuncia, secondo me sempre più efficace, per parlare di un settore. Io ho iniziato più di 15 anni fa ad occuparmi di servizi sull'immigrazione e poi ho cominciato a lavorare invece più specificamente sull'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Dove? A Napoli. Mm-hmm. E quindi diciamo che avendone visti tantissimi, direi migliaia in tutta la mia carriera, mi sono reso conto, come giusto che sia, che i migranti, come sono esseri umani, quindi non vanno categorizzati come né ovviamente chi ne parla solo male, né ovviamente chi ne parla solo bene. E quindi praticamente c'è questa dicotomia tra una parte che li considera tutti diavoli, causa di qualsiasi male, c'è un'altra parte che invece li considera di default dei santi, che quindi ne giustifica qualsiasi atteggiamento, qualsiasi cosa succede. Comunque non è mai colpa di nessuno, perché alla fine stiamo parlando di persone particolari. Sono sicuramente persone particolari, però se tu li conosci, sono esseri umani, non vogliono neanche essere trattati come delle categorie a parte. Vogliono essere trattati come esseri umani, con i loro pro e i loro contro. Tu li devi anche capire i loro virtù, i loro pregi e i loro difetti. Vanno capiti se tu poi puoi fare un'integrazione efficace. Non puoi partire da uno stereotipo, lo stereotipo non ti porta da nessuna parte. E quindi, avendo vissuto in questo campo per tanti anni, avendo visto anche un po' tutto il mondo che gira intorno all'accoglienza, in particolare all'integrazione dei rifugiati richiedenti asilo, mi sono reso conto che esistono anche lì un mondo molto frastagliato, sia nel terzo settore, sia nelle istituzioni, nelle questure, le varie questure, prefetture. È un mondo molto frastagliato, in cui ci trovi veramente di tutto, e in cui ci trovi cose molto positive, ma anche cose molto negative, e che mi è piaciuto sottolineare con l'ironia, perché l'ironia, quando vuoi fare una denuncia, è un'arma molto più efficace delle altre, a mio punto di vista. Tra l'altro in un ambiente sociale e geografico particolare qual è Napoli, no? Cui tutte queste dinamiche a Napoli hanno anche delle valenze diverse che in altre città. Ogni città ovviamente dà a queste situazioni le sue proprie sfumature. Sì, sono sempre, tutto quello che succede a Napoli è sempre un po' amplificato quando succede da noi. Anche i rapporti. Comunque Napoli è una città un po' particolare, perché pur essendo una metropoli, alla fine una città relativamente piccola, dove le dinamiche sono più o meno sempre le stesse, i circoli sono sempre gli stessi, i rapporti sono più o meno incardinati in una certa maniera, e quindi tu parli di un sistema in cui bene o male si riconoscono tutti, si conoscono un po' tutti quanti, dalla politica al terzo settore, sono tutti abbastanza collegati tra di loro. E omogenei a un certo ambiente anche politico. Sì, assolutamente. Però ovviamente lì dal quale anche tu però prendi un po' le distanze. Sì, il libro è anche un respiro nazionale, perché comunque c'è la parte che spiega un po' il fenomeno in maniera molto semplice per noi, per non addetti ai lavori, che è un fenomeno nazionale, anche come sistema di accoglienza, come politica di integrazione. Però la parte di romanzo, la parte della storia di questo operatore è di Napoli. Non è che io ne prenda le distanze, in realtà ci tenevo a spiegare un po' come questo mondo sia anche questo più variegato di quanto sembri, il terzo settore. Come on, we not let you go. Oh, oh, oh, oh, oh. My soul. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare tra pochissimo di integrazione, della presenza degli stranieri in Italia, di terzo settore. Vi aspetto. La prossima volta verrete a cena da noi. Sentirete il mio caviale alla criera, sono certo che vi piacerà. E Florence ci preparerà la sua macedonia con vodka e acquavite. Sì, sì, sì, sì. La sua sensibilità si accorda con la sua coscienza umanitaria. Ma se lei vuole rifiutare le idee acquisite, allora bisogna che le sostituisca con una morale personale. Raffaele. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Risvegli. Pino, vaffanculo tu, vaffanculo la pizza che fai e vaffanculo Frank Sinatra. Ah sì, beh vaffanculo anche tu e vaffanculo Michael Jackson. Ora basta! Tempo scaduto! Tempo scaduto! Datevi una bella calmata! Vi invito alla riflessione, fate sbollire la vostra rabbia! E di questo, fratelli, ne sono doppiamente sicuro, ve lo giuro! That's the story of... That's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world and all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You've got to win. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con Marco Elardo, scrittore, operatore sociale precario a Napoli, che ha scritto questo libro divertente, Fratello John, Sorella Mary. È un libro nel quale si parla sicuramente di immigrazione, ma lo si fa in maniera ironica. John e Mary sono fratelli? No, in realtà si sono conosciuti in Libia, si sono amati e hanno concepito un bambino nato in Italia dopo uno sbarco di fortuna. Flower è una giovane nigeriana, ligia alle regole? No, in effetti è dispettosa, ribelle, l'incubo degli operatori sociali. L'associazione 8 luglio lavora per i diritti dei migranti? No, organizza feste in costumi etnici ed è promotrice di un corso di tarantella per rifugiati. L'assessore comunale è in prima linea alle manifestazioni per i richiedenti asilo? No, perché appena le cose si mettono male si allontana fingendo telefonate urgenti e provvidenziali. Luca Alberto di Gianfilippo è un imprenditore che ha a cuore i meno fortunati? No, lui ci mette solo l'idea di inaugurare una mensa per chi ha fame e sete, ma di soldi nemmeno a parlarne. Sì, è il discorso di prima, cioè sono molte delle storie o dei personaggi, ovviamente sono, come dico io, relativamente inventati, sono quantomeno molto verosimili. E comunque c'è l'assessore che spesso capita, è una persona poco competente ma vuole per forza far vedere che ne sa più di te. L'imprenditore che immagini voglia sostenere la tua causa, in realtà vuole fare pubblicità senza cacciare soldi o altre cose, però messi in una chiave ironica, berleffati in una certa maniera. Perché, certo, che è abbastanza questo panorama che tu dipingi, per chi non l'ha frequentato, è abbastanza nuovo e anche deprimente. È tutto così? No, assolutamente no. Io racconto sempre che il primo libro lo scrissi per parlare di questo problema, che comunque il settore ha anche delle cose che non vanno, oltre cose che vanno. E combinazione, un mese dopo l'uscita del primo libro scoppiò Mafia Capitale, per cui racconto sempre che le prime presentazioni il mese precedente erano degli scontri, perché io andavo a dire: guardate, il terzo settore non è tutto perfetto, ha i suoi difetti, e la gente diceva: no, ma come, è bellissimo il mondo del volontariato. Dopo un mese vado a fare la stessa presentazione e mi trovo tutti quanti che mi dicono: no, il terzo settore è un disastro, sono tutti ladri, perché c'era stato lo scandalo. E chiaramente non è così, e adesso io sto dicendo: buona parte del terzo settore pieno di persone meravigliose che lavorano veramente in maniera molto precaria, tra l'altro, e molto efficace. E c'è una parte che effettivamente lo sapevamo tutti che aveva i suoi problemi, solo che nessuno lo diceva. Nel momento in cui è scoppiato tutto questo bubone, se mi passi il termine, purtroppo a livello di opinione pubblica adesso passa alla concezione opposta, che è altrettanto sbagliata. Però non dobbiamo abbandonare l'idea che il terzo settore deve anche autoriformarsi, perché c'ha delle cose che non vanno. E tu sai che sfondi una porta aperta con me. Come no. Come è cambiata la situazione nella realtà, non nei tuoi libri, negli ultimi anni? Si è peggiorata, si è migliorata? È parzialmente cambiata. Il problema è che noi in Italia stiamo lavorando da anni sull'emergenza. E una cosa che anche, diciamo, voleva dire il libro è che emergenza è una parola magica intorno al quale appunto sono girati un sacco di problemi, poca trasparenza nelle assegnazioni dei progetti, nessun monitoraggio dell'efficacia dei progetti, non si sapeva bene questi soldi a chi andassero. Lavoriamo sull'emergenza. Si è cercato poi, diciamo, lo stesso sistema nazionale di accoglienza fino a pochi anni fa aveva 3.000 posti, immaginiamoci quanti siano per rifugiati richiedenti asilo, siano pochissimi, in maniera che poi si metteva in mezzo la questione emergenza e si facevano accoglienza negli alberghi a costi molto superiori. Adesso si sta facendo un passo avanti, il sistema di accoglienza è stato molto potenziato. Il problema è che andiamo sempre a rincorrere, perché effettivamente il fenomeno negli anni in Italia è cresciuto e sono 2 anni che abbiamo numeri molto molto grossi, e quindi non avendo lavorato gli anni precedenti su questo siamo sempre in affanno, e quelle cose, diciamo, quelle ombre che ci sono in un certo tipo di accoglienza in parte persistono, non si riesce ancora a fare particolarmente luce. Non abbiamo ancora un sistema, per fortuna, per sfortuna, che sia stabile, che sia in grado di affrontare tutto il fenomeno, che poi è un fenomeno che varia dai periodi storici, varia dalle crisi che ci sono nel mondo. Questo è un periodo dove le crisi intorno a noi sono molte e quindi i numeri sono più alti. Come hanno recepito i tuoi libri all'interno dell'ambiente del terzo settore? Dipende, anche lì. Diciamo che ci sono molti che mi dicono: ah, era ora di dire queste cose e finalmente ne possiamo parlare. Ci sono altri che magari hanno degli scheletri dell'armadio che semplicemente preferiscono non parlarne. La strategia del silenzio che evita, diciamo, di dare troppa visibilità poi a qualcosa. La cosa che interessa molto a me è che è piaciuto molto ed è servito molto a coloro che invece non erano addetti ai lavori. Anche lo usiamo molto anche nelle scuole, nei ragazzi, cioè serve un po' ad affrontare anche gli stereotipi che noi sentiamo spesso in televisione sul fenomeno delle migrazioni, in particolare dei rifugiati richiedenti asilo. Arrivano con delle idee molto, molto sbagliate, ma perché le sentono e riescono a capire in maniera molto semplice qual è la verità, perché non do un giudizio positivo o negativo, cerco semplicemente nella parte in cui si spiega il fenomeno di dire come stanno le cose, anche dando dei numeri, per esempio, no? E quello serve e funziona molto. Io penso sempre a mia madre, che io ho lavorato per veramente più di 10 anni e lei non capiva cosa facevo. Se lei è libera, mi ha detto: finalmente ho capito che lavoro facevi, vuol dire che ha funzionato. Allora. Molti ti chiedono: ma che lavoro fai? Chi te lo fa fare? E poi soprattutto, perché non ti cerchi un lavoro vero? Esatto. Ed è questa la domanda che ti fa più arrabbiare, come se non lo fosse. Esatto, sì, ma l'hanno detto sai quante volte, tu lavoravi giornate intere anche il sabato. È vero che magari avevi difficoltà economiche, per cui i pagamenti, come succede ancora adesso, molto spesso sono molto in ritardo, anche con mesi di ritardo, e quindi c'è molta difficoltà, però in un certo senso c'è una parte delle persone che vedono ancora l'operatore sociale, anche il project manager che lavora su questi temi, un po' come se sia un hobby particolare che non si capisce quasi perché direbbero anche pagare. E non è visto quasi come un lavoro. Se tu hai alla posta da dire devo fare un'operazione, gli dici che lavoro fai e ti dici operatore sociale, loro hanno un elenco enorme di anche spazzacamino, un'altra cosa ci sta ancora, ma operatore sociale non c'è, non è riconosciuto, è una figura un po' strana in un certo senso. E poi racconti in Fratello John e sorella Mary i vari rapporti fra gli operatori di questa associazione. Mi ha colpito molto il punto di vista di Mohamed, che è un operatore, ovviamente un personaggio del libro, ma sarà ispirato a persone vere, immagino, che è un operatore dell'associazione di origini straniere. Sì. E che sembra sempre molto un po' più rigido in realtà di quanto lo siano le persone di origine italiana. E Mohamed è un personaggio come tutti, diciamo, più o meno inventati, chiaramente può ricordare qualcuno, però non è questione importante. Era il fatto che lui è l'operatore migrante che viene, diciamo, da quella estrazione, però è quello meno più disinteressato, che si interessa di meno delle storie, che a volte è più rigido, anche più cattivo, anche lì per dire che guardate che non è lo stereotipo dell'immigrato è quello che ne capisce di immigrazione, è come che chi si opera al cuore ne capisce di cardiologia, non è una questione automatica. Questo fatto di mettere il fantoccio all'immigrante e dire lui è l'esperto non è così automatico. Quando si fa un progetto di accoglienza tu devi avere delle persone che abbiano delle competenze e una certa capacità e anche una certa voglia, e non è che se prendi il migrante automaticamente lui farà questo. E anche questo un po' è uno stereotipo largamente diffuso. Un po' questo, insomma, questo stereotipo anche del vedere il migrante come l'esperto. Ne viene fuori, Marco, un ambiente lavorativo nel quale l'efficienza e la selezione per merito latitano un po'. Assolutamente. Nel mio caso, io racconto ovviamente di una delle tante organizzazioni dove lavora Mario Elia, un'organizzazione di derivazione neanche politica, ma direi partitica, come succede tante volte che ci sono associazioni che sono costole di partiti e quindi negli anni hanno ovviamente dei vantaggi nel momento in cui il colore della giunta è lo stesso, e quindi tutti quei problemi di cui siamo parlati all'inizio, per cui questo settore da un certo punto in poi è cominciato anche un po' ad arrancare, perché se gli affidamenti non sono legati alla competenza, all'efficacia, poi i servizi sono fatti male e chiaramente le cose vanno di male in peggio. Solo che prima funzionava perché di soldi ce n'erano tanti, come ci ricordiamo. Da un certo punto in poi i soldi sono cominciati a mancare e il sistema se n'è pian piano un po' caduto. Il problema che dico io è che rischiano di rimanere in piedi le organizzazioni che hanno i rapporti e rischiano di cadere quelle che non ce le hanno, che però magari sono più brave. Terzo settore, insomma, assomiglia un po' al resto d'Italia, al primo e al secondo settore. Sì. Alla fine la società quella non cambia, non è che l'operatore sociale è un santo anche lui o c'è qualcosa di particolare. Grazie a Marco Elardo per averci raccontato qualcosa in più di questi suoi libri, che vi consiglio di andare in libreria a prendere: Fratello John e sorella Mary, Terzo settore in fondo, questi due libri semiseri sulle avventure di questo operatore sociale precario a Napoli, Marco e Elia, edizioni Spartaco. Grazie Marco. Sì, io vi ringrazio tantissimo, buon lavoro. Ed è tutto per questa puntata di Indovina chi viene a cena. Io vi rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo, sempre per parlare dei temi dei quali ci occupiamo: immigrazione, identità, cucina. Scrivetemi se avete dei suggerimenti, delle idee, anche per mandarci delle critiche eventualmente a vfurlanetto@radio24.it, oppure per riascoltare il nostro programma sul sito internet di Radio 24 alla pagina di Indovina chi viene a cena. Trovate tutte le informazioni e le storie che abbiamo raccontato. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of life.